parlo col servizio percorribilità strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Ma caghe... Pronto? Pronto? ACI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea. E questa era una pubblicità Progresso offerta dall'Accademia della Brusca. Sabato, sia che andate a votare o non ci andiate, a noi non ce ne frega un emerito. Ah! Si parte! Benvenuti, signore e signori, alla sesta puntata dell'Accademia della Brusca, qui su Radio Wombat. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, e questa sera abbiamo una tematica così cara ai linguisti, così preziosa, perché è proprio come una perla all'interno dell'ostrica, questa metafora un po' marittima, che c'entra molto, perché... Iori, iori, oggi si parla di creolo e pidgin. Olè, perché saranno mai? Per tutti quelli che non lo sanno, hanno sempre sentito parlare solo della cucina creola, brutti, ingordi, che non siete altro. Questa sera avrete tante risposte, ma appunto si parla di cucina creola e... Hai detto cucina? Ho detto Hai cucina detto creola. Cucina? Hai detto cucina? Ho detto cucina. Piatto creato apposta per me. Lumache e soia fermentata. Però, un cibo famoso che io non digerisco, non ce la faccio. E uno snack fresco di scoglio. Sembra una gelatina salata. Un condimento a base di sangue. Questo piatto ha un gusto deciso come pochi altri al mondo. Un assaggio di una pianta gustosa. È dolce, ovviamente sa di fiori, ma con una nota di mentolo. E un vassoio colmo di polpo. Non smettere quando sei pieno, ma quando sei stufo. Dall'oceano alle montagne, una delle scene gastronomiche più vivaci del mondo è proprio quella delle Hawaii. Hai capito la scena delle Hawaii? No, scusate. Mi si è smontato il microfono, scusate. Io volevo mantenere un po' di serietà in studio, ma non è possibile. Bene, bene, bene, chiamiamo il tecnico, grazie. Allora, signore e signori, puntata del giorno è un puntatone, questo è un argomento caldo, è vero, come dicevi i linguisti ci tengono a questo argomento. Sì, ci tengono tantissimo, perché cos'è, quell'anello di congiunzione tra la lingua, diciamo, tra l'autostrada e il raccordo anulare. Però sì, non è proprio così sbagliato il paragone. Si parla generalmente di linguaggio verbale, si parla di lingua dei segni e spesso e volentieri, non si sa per quale motivo, ma il creolo e i pigeon vengono considerati quasi come un sistema linguistico a parte rispetto a quelle che sono le grammatiche, le lingue più parlate, più conosciute, e la lingua dei segni. Ci rifacciamo a quella puntata in cui si parlava di discriminazione linguistica, no? Ai ai ai. Ai ai ai. E il creolo, essendo così particolare, i pigeon essendo così particolari, vengono un pochettino studiati con un occhio di riguardo. Sì, anche perché il creolo spesso viene definito tipo la lingua rotta, la lingua difettosa, la lingua... Broken language. Certo. Maledetto. E come nasce questa faccenda qui? Cosa succede? Allora, piccola premessa storica, eh? Sì. Che ne dici? Così si fa un po' il quadro della situazione. Vai. Allora, in generale, negli ultimi 2-3 secoli, ma con più esattezza alla fine dell'Ottocento, c'è stata una grande espansione delle piantagioni di canna da zucchero, eccetera, eccetera. E cosa c'è stata? C'è stato un grande afflusso di braccianti che provenivano dai vari paesi del mondo e andavano a trasferirsi in territori in cui si concentrava appunto l'arrivo di questi braccianti, tutti provenienti da paesi diversi, quindi Cina, Giappone, Corea, Filippine, Portogallo, Porto Rico, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Questi braccianti dovevano inventarsi, voi immaginatevi alla fine dell'Ottocento 10 persone in un campo che parlavano 10 lingue differenti, si sono inventati semplicemente un modo per comunicare, ma proprio un modo solo ed esclusivamente da utilizzare nella società lavorativa, per comunicare con tutte le persone che provenivano da altri paesi. Questo è il pidgin, cioè un ripiego praticamente che serviva solo ed esclusivamente per comunicare con le persone che li circondavano. Questo solo ed esclusivamente riferito a una situazione di multilinguismo, chiaramente. Non stiamo parlando di altri segni domestici o altri tipi di comunicazione, magari poi via via nel tempo tratteremo anche questi, però qui si tratta solo di un ripiego comunicativo in situazioni di multilinguismo. Punto. Da qui, soprattutto dal 1900, per esempio agli Hawaii, ma anche... abbiamo tantissimi, dopo faremo anche tutta la lista dei vari pidgin che poi sono diventati creoli. In generale, comunque, tutto il mondo e tutti i paesi hanno vissuto brevemente questi piccoli aspetti. Vuoi dire qualcosa riguardo? Beh, della differenza tra pidgin e creolo, che a volte vengono scambiati per sinonimi, in realtà non lo sono, ne parleremo. Altro, sì, quello poi tra un si fa anche sentire qualcosa. Eh sì, questa sera abbiamo una puntata che Alberto Angela, davvero. Che dire, che il pidgin, diciamo, che è stato utilizzato come base per lo studio è stato l'hawaiano. E il primo a studiarlo è stato Bickerton, il nostro caro amico Bickerton, che forse è secondo solo a Chomsky nella nostra lista dei preferiti. Anche no? Se io qualcosa che ha scritto e detto via via, no, sì, preferirei Pinker. Sì, qualcosa che ha detto non la condivido, però vabbè, sono dettagli. Allora, ci dispiace Bickerton, ma vai al terzo posto della nostra classifica del cuore. Sì, sì, decisamente. Quindi, il pidgin hawaiano ha avuto diffusione all'inizio del Novecento. L'ha iniziato a studiare Bickerton e per studiarlo ha utilizzato un metodo molto particolare, che è stato quello di intervistare i parlanti di quella lingua, e è riuscito poi a trarre due conclusioni principali. Che il lessico del pidgin hawaiano era povero e privo di terminazioni funzionali, cioè non c'è un uso sistematico di articoli, verbi ausiliari o desinenze. E l'ordine delle parole, quindi il famoso ordine che dà un senso ai componenti della frase, era completamente variabile e dipendente dalla lingua madre da cui appunto il pidgin era nato. Esatto, dalla lingua dominante. E facciamo un esempio, che cos'è l'ordine variabile? Non so, per esempio, nel giapponese scusate, l'ordine delle parole nella frase. Ad esempio, nel giapponese è soggetto, oggetto, verbo. Il verbo è messo alla fine. E la maggior parte delle lingue, ovviamente, poi adottano invece un sistema SVO, soggetto, verbo, oggetto. Invece nel pigeon hawaiano tutto questo non succede, non c'è un ordine preciso, le parole si mescolavano e senza avere, diciamo, una logica, o perlomeno ce la poteva avere, ma non era regolamentata. Ah sì. Sì, io manderei un pezzo così facciamo digerire, ma sì, vi facciamo tutto respirare questo malloppino, che ne dici? Allora, vi facciamo sentire Fela Kuti, ma non perché vogliamo in qualche modo rubare la scena all'Africa che sentirete domani alle 21. Alle 21. Giusto, sì. Ma semplicemente perché proprio in quel periodo in cui Fela comincia a cantare, iniziava a usare anche il pidgin English, quindi l'inglese africanizzato. In alcune situazioni, in alcuni suoi pezzi compare, ed era tipo la lingua franca per l'intera Africa anglofona, praticamente. Sì, Africa sì. Anglofona è difficilissimo. Africa anglofona. Sono sentita un po' in difficoltà a dirlo. Ok, quindi vi facciamo sentire intanto questo pezzo. Rhythm is called Koginikuku, used in some particular kind of shrines. In my hometown, Abeokuta City, it goes like this. Koginikuku, Koginijja, Koginikuku, Koginijja. E questo era Fela Kuti, Why Black Men They Suffer. Abbiamo una nenia super allegra questa sera. Posso fare un saluto in diretta? Mi è venuto in mente. Se ci sta ascoltando, volevo salutare Giulio, il mio collega, quasi capo forse di lavoro, da Londra, che probabilmente ci starà ascoltando. Così aveva detto. Ma chi te lo fa fare? Ma chi te lo fa fare? In metropolitana a Londra mentre torni a casa. Ma chi te lo fa fare ad ascoltare? Vai a bere in un pub, richiudite in un pub, che sono le 8 e già tardi. No, là sono le 7. Ciao Giulio. Ah, giusto, è vero. Benissimo. Di cosa ci vuole parlare, signorina Nina? Io vorrei parlare, tanto per introdurre quel famoso argomento, comunque quella tematica di cui si accennava poco fa, cioè il passaggio e la differenza da pigina a creolo. Leggicela. Ho un bellissimo libro qui, che è Ray Jackendoff, Linguaggio e Natura Umana, in cui ci riporta un bel esempio che io, grande conoscitrice di lingua creola, vi leggerò. Allora, anzi, il pidgin, per riprovare appunto il fatto che non ha una struttura grammaticale particolare della frase, quindi non ha un ordine degli elementi. No, the men, they go, make garden, plant these, cabbage, like that, plant potato, like that, and then all that one, all right, sit down, make lily bit story. Stupendo. Il creolo cosa dice? When work powder guys, they stay, go make garden for plant potato and cabbage and after little, while they go sit down, talk story. Hai Vedete? Capito? C'è una differenza. Vi faccio la traduzione in generale. Sarebbe, no, gli uomini, finito il lavoro, loro vanno, è una traduzione letterale ovviamente, fanno l'orto, plantano questi cavoli come quelli, scusate, piantano patate come quelle, e poi tutti insieme, tutto a posto, si chiedono, raccontano storielle. Questa era la prima traduzione del pidgin, e invece il creolo dice, quando il lavoro è finito, gli uomini loro si mettono a fare l'orto per piantare patate e cavoli, e dopo un po' si mettono seduti, raccontano storie. C'è un ordine diverso, c'è una sorta di coniugazione del verbo e c'è effettivamente una strutturazione della frase differente, che non è un elenco di azioni ma è un nesso logico quasi. Banalmente il creolo è più raffinato perché comunque va a interagire con le strutture neurolinguistiche, quindi è a tutti gli effetti una vera e propria lingua, cosa che il pidgin non è. È come dire, traduco parola per parola con Google qualcosa e viene fuori un troiaio, un qualcosa che non è tipicamente linguistico, contro una vera e propria traduzione coerente, quindi con tutte le varie sfumature di cui si è già parlato altre volte. Quindi in uno c'è una meccanicità, un'invenzione, una trasposizione di termini usati per quella situazione, nell'altra c'è una vera e propria creazione linguistica. Infatti il vero nesso che rende poi il pidgin un sistema meccanico, sociolinguistico, semplicemente per comunicare in determinate situazioni, quello che invece rende il creolo una lingua, adesso viene provato proprio studiando quello che è stato il comportamento dei bambini esposti al pidgin, perché è lì che poi si è capito e scoperto quanto il creolo poi sia diventata una lingua, perché i bambini esposti al pidgin si sono inventati una lingua nuova da quelle poche indicazioni che avevano con il pidgin. Quindi, esattamente, sviluppando un sistema linguistico completo o quasi, quindi alla faccia del broken language. Capito. Infatti, tipo, tutti i termini funzionali, le proprietà che non si ritrovano in tutte le altre lingue, poi sono subentrate nella creazione del creolo. Tipo, tutti i bambini cresciuti parlando il creolo hawaiano, per esempio, non avevano genitori che parlavano il creolo, avevano genitori che parlavano il pidgin. Quindi non solo i bambini hanno fatto nascere con i dati della loro grammatica universale una lingua, ma è testimonianza anche del fatto che c'è un periodo in cui questo può avvenire, e superata quell'età X, che ancora non si è capito bene qual è, questo, non si può creare una lingua, quindi i genitori non hanno mai imparato il creolo, hanno solo inventato un pidgin. I bambini esposti al pidgin hanno inventato una nuova lingua, l'hanno semplicemente messa in pratica. L'hanno standardizzato, perlomeno resa un sistema, ecco. Sì. Con delle occorrenze, con appunto quei fenomeni grammaticali tipici di una lingua a tutti gli effetti. E soprattutto è a testimonianza del fatto che non sono i genitori a insegnare la lingua ai figli. Questa cosa è importantissima, perché ci sono le mamme che credono di poter insegnare a parlare ai loro figli sfoggiando spesso i grandi testi di grammatica delle scuole medie, e semplicemente sì, i bambini imparano da soli. Gli bastano pochissimi dati, quando è ora, certo, ognuno la sua. Mamme, non correte se vostro figlio di 2 anni non ha ancora spiccicato una parola. Per favore, non portatelo così presto dal logopedista. O dalla neuropsichiatra infantile. Ancora peggio, dalla neuropsichiatra. Date tempo al tempo. Esatto. A questo punto, che dici? Quasi Natale. Un pezzo natalizio. Visto che mancano solo 24 giorni al Natale, ci siamo. The night before Christmas. Un Hawaiian pigeon, niente male. Auguri. Was the night before Christmas, and all over the place, not even the geckos was showing their face. The stockings was hanging on top the lanai, 'cause no more fireplace in Hawaii, that's why. The kids, they all crash, the old lady too, and they leave all the work for, you know who, eh? So me, I stay picking up all of the toys, when boom, outside, I get only big noise. Me, I run to the window, almost spill my coffee in my cup. I stick out my head and I go, hey, what's up? And then I no can believe what I see. Was so unreal. You know what I mean? This fat howly guy get his reindeer in my yard. And the reindeer's not as broken, you know, that's why hard. But never mind, this Christmas, so I cut him some slack. Plus, had Ukupala presents poking out of his sack. So I wait till he power and tie up his reindeer. Then I yell out the window, hooey brah, over here. And I tell him first thing when I open the door, hey brah, him or your shoes, you gonna dirty my floor. So he take off his boots and he say, you know who I am? I go, oh brah, from the smell, you must be Mr. Toe Jam. He make the guy mempachi eyes and he go, ho ho ho. Now, I stay thinking, hey, this guy kinda slow. He look like my tutu, but a little less weight. And his beard stay so white, get more white than shark bait. He stay all in red, especially his nose, and he get reindeer spit on top his nice clothes. But him, he no care, he just smile at me and he start for put presents underneath the palm tree. I tell him, hey brah, no need make like that, and watch where you step, you gonna mock him a cat. Then out of his bag, he pull out one brand new computer, choke video games, plus one motorized scooter. He try for fill up the Christmas sock too, but he had so much pukas, all the stuff went fall true. When he power, I tell him, hey, Santa, try wait. I'll get plenty left over, I'll go make you one plate. But he never like hang, he say, hey, I get so much for do. Gotta make all them small cakey's wishes come true. Get in, brah, I said, and I flash someone shaka. And I tell him, hey, Santa, Mere Kali Ke Maka. When he hear that, he stop, and brah, I'm telling you true. He go, Garen's Barbarians, brah, and Merry Christmas to you. Benissimo, avete avuto anche il pippone natalizio. Allora, il referendum si è fatto, il pippone natalizio si è fatto, ma si rifarà, perché chiaramente qualcosa sul Natale ve lo dovremo ancora propinare, di sicuro. Cosa torniamo pensate? A noi, ci chiedono da casa, a postawombat@insiberia.net, ci chiedono come si scrive pidgin. Allora, caro ascoltatore che c'è scritto pidgin con 2 G, sappi che la parola si legge pidgin come l'hai scritta, ma si scrive con la dentale sonora PIDGIN. Come pidocchio e ginnastica. Esatto, fai un mix, o come il gin. Ecco, forse meglio. E molti lo pronunciano pidgin, ma in realtà si dice pidgin. Ecco, infatti, siamo sicuri quindi che è pidgin, perché io l'ho sempre sentito così nelle varie traduzioni, nei video X. Sempre sentito pidgin. Okay, ogni tanto mi sono posta il problema, perché per la pronuncia inglese sembrerebbe, almeno dovrà essere pidgin, ma... Ok, vabbè, insomma, se finora abbiamo sbagliato, Dio ci cenere credo. Sul e nel capo, anche dentro, dalle orecchie nel. Magari, nel. Benissimo, ma insomma, da dove arriva questo sistema grammaticale che si inventano così dal niente questi mocciosetti? E che merita di essere studiata. Ma figurati se ora, ma Chomsky, no? Che aveva un sacco di roba fighissima da fare. Come mai si è soffermato a questa grammatica universale? Ci chi gliel'ha fatto fare? Motivo. E questo è il problema, che i bambini utilizzano quella che viene chiamata la grammatica universale, che abbiamo nominato quante volte? 1000 in queste prime sei. Su cui faremo una puntata. Sì. Yeah. È una grammatica universale che viene detta anche bioprogramma. È come un menu di opzioni che danno istruzione alla grammatica mentale del bambino, cioè abbiamo una grammatica universale che prevede tutte le opzioni. Ogni bambino ha la sua grammatica mentale, quindi danno istruzione alla grammatica mentale del bambino, che gli permette anche di selezionare input ambientali e operare delle scelte. È un po', diciamo che questo menu è come quello che troviamo nel computer, in pratica ci permette di avere delle opzioni di default. Se scegliamo un'operazione di default è perché non abbiamo altre istruzioni diverse, giusto? Se abbiamo istruzioni diverse ci agganciamo a quell'istruzione diversa. L'istruzione diversa è l'ambiente che ci propone una lingua o due, o a seconda dei casi anche tre, quattro, e bla bla. Quindi è una scelta da fare, dobbiamo optare. Esatto. Una delle possibilità. E che altro? Scegliamo quindi questa opzione di default e allo stesso modo però usiamo anche il dato della grammatica universale, perché nel pidgin per esempio non è presente alcuna indicazione su come scegliere dal menu della grammatica universale, quindi è solo un'informazione e quindi un po', come dire, che praticamente confuta tutte le affermazioni che i bambini apprendono la lingua imitando quello che gli arriva dall'ambiente. L'ambiente dà solo un input, ma fanno tutto il resto da soli grazie a opzioni di default, a istruzioni che contengono già neurolinguisticamente pronte. Esatto, infatti una dimostrazione di questa cosa è che superata una certa età non si può più apprendere una lingua creola, è stato studiato proprio, come L1, quindi come lingua madre. Infatti, come dicevamo prima, i genitori che generano un pidgin per questioni ambientali e di lavoro, insomma, non acquisiscono poi il creolo, ecco, mentre qua. I figli sì. Esatto. E ora, testimonianza del fatto che... Che il creolo è una lingua molto diversa dalle lingue che l'hanno generato, vi faremo sentire un pezzo del quale non ci frega un emerito bip, però l'abbiamo scelto proprio per farvi sentire le differenze della lingua. Allora, penso sicuramente, allora, non fate gli snobbosi, gli sciccosi, ah, io questo pezzo non lo conosco, perché chiunque è uscito almeno due volte di casa in questi ultimi 6 anni l'ha sentito. Quindi per non fate quelli lobby. Che, oh no, io non conoscevo mica questo pezzo. Quindi lo conoscete in inglese e adesso noi ve lo facciamo sentire nella versione di creolo haitiano. Chiediamo perdono a Naotodate di 8 Hertz, Slick Chick di Bloody Mary e alla a fuga tutti, del gatto. Anche solo chi passa di qua per caso. Chi è fuori in regia passa per ne faremo caffè. Sentire solo un pezzo, giuriamo. A un certo punto sfumeremo. Invece se uno dei due ragazzi del programma Prog non lo smette di fumare in studio... Ai ai ai, questo lo lasciamo nel bobinone tutto il giorno. Vai. Pronti? Qui possiamo anche parlettarci sopra ogni tanto. Facciamo... lo mimiamo intanto. In minore. Hello, c'est moi. T'as aimé connaître comment ça y est. Vin bam nouvelle temps, oui. Lille le temps. L'ouvrir genoui. Yo dis avec les temps t'as guéri. Mais rien pour qu'on change. Alors, n'attendez oui. C'est pas des causes, pas tant des sous-pays qui fait qu'elle me casse. Bam nouvelle, non. M'a supplié, oui. Yo dis parole, tournée aux chansons. Et tout espoir, pédim, pas où est différence. Depuis 6 ans, la terre t'est fin tremblée. Un po' la calma sa che le men che se ne va sa fa no to say me pegim con te me muese tu una pile ai a poco pale hello wa un po' la calma sa che le allora in tedesco sarebbe neutro, quindi a meno che non sei l'acronimo di qualche cosa. Vado in Lidl. L'Italia dovrebbe essere il supermercato Lidl, come dire lo Scottex, insomma. No, no, in realtà non è proprio così. Nome presunto, perché la coppe non due gomasse. Pour prendre une décision, vous pouvez éduquer, accomployer. Va bene, anche basta, scusate, qui sans espoir. Sentire, sì, ok. Alla Nina è piaciuto tantissimo questo episodio. Guarda che te lo rimezzo. Sfodero il mio do terza da soprano. Ecco, sopranaccia. E allora che vi faremo sentire? Questo ci sta adesso però, eh? Questo me lo devi concedere. Vado? Vado? Vai, vai. Vado? Sì, sì, sì. Dottor Laporta, ha fatto? Sì, fa. Sì, fa. È scaduto il tempo. È scaduto, importante. Tocca a lei, su. Che parole? Che parola ha composto? È finito il tempo, dottore. Stref. Sterfersche. Sterf. Sterfersche. Sterfersche. Sterpaglie. Sterfersche è da 8. No, sono 10. Non esiste Sterfersche. Ma perché devi portare Sterf? Aspetta, ascolta. Mettiamo un'altra grassidra. No, due ne ha fatte lei. C'è una grassidra per uno. Sterfersche. Sterfersche non esiste. Al suo vocabolario. Non esiste nel vocabolario. Sul vocabolario è italiano. Sul vocabolario italiano. Sul suo non lo so. In disuso. È in disuso. Come in disuso? È in disuso. Ma quale? È in disuso. Il dizionario. È sul vocabolario. Il vocabolario come si chiama? Self-fetch. Non c'è sul vocabolario. 2, 4, dama! Non esiste, dama. Non esiste. Esiste. Non esiste. Esiste. Voi lo conoscete self-fetch? No, abbiamo votato. Non c'è sul dizionario. Non esiste. Mettiamoci. Abbiamo votato. Mettiamo il dizionario. No. Mettiamo. E dove lo mettiamo? Dopo la zero. Non dà fastidio, dopo la zero. Non legge nessuno. Ma che self-fetch? Self-fetch. Non va bene, non gliela facciamo passare, mi spiace. Posso prendermi solo lo scarabello? No, non mi prendo la lettera. Poverello, quello è Jolly, metta a posto per piacere. Sprengerfo! È finita. Sprengerfo, tocca. Abbiamo fatto il giro. Sì. No, sta zitta, sei stato zitto. No, una parola. Ridocca a me. Sì. Te sei stato zitto. Sei stato zitto. Sì. È finita la classifica. È screfreccio. Steffreccio. 150 punti. Sì, ma no, una parola deve essere in italiano. Dimmi su. Italiano. E io sono. Come? Italiano. E chi sono? Lei è italiano. Sì, italiano. Allora, noi stiamo qua per giocare. Siamo qui per divertirci. Stiamo qua a giocarci i soldi. Una parola in italiano, che ci vuole? Allora. Allora basso. Ecco, bravo, passa, tocca a te, vai. Fantastico. Sì, sì, sì. Dottor Laporta, ha fatto? Sì, fa. Questo era il mitico Corrado Guzzanti nella sua proverbiale imitazione di Gabriele Laporta. Perché l'abbiamo messo tra gli spezzoni audio della serata? Perché è come se effettivamente con il creolo, per quanto riguarda la formazione linguistica, un po' si giocasse a scarabeo. Possiamo dirla, riprendendo il concetto di broken language, che vedo Gabriele Laporta, vedo che lo possiede. Sì, sì, sì, ce l'ha tu. Perfettamente. In realtà allora, non è vero, non sapevamo come riempire questo buco. Ma siamo delle grandissime paracu, quindi siamo delle strateghe, non siamo delle paracu. Quindi abbiamo trovato una spiegazione anche genio a questa cosa. Allora, benissimo, parliamo ora del vocabolario, perlomeno dell'origine delle parole nella lingua creola. Abbiamo tre macro aree: le lingue creole basate sull'arabo, sul francese e sull'inglese, che ovviamente potrebbero corrispondere anche un po' alle zone generalmente di colonizzazione. Queste le più grosse. Le più grosse. Sì. Poi abbiamo quelle basate sul malese, sul ngbandi, che è una lingua africana, sull'olandese, quelle asiatiche, quelle su, ovviamente basate sul portoghese, grandi colonizzatori anch'essi, dell'America del Sud con il famoso papiamento, Brasile, e altre lingue creole basate sull'indiano, sulle lingue del Bangladesh, della Birmania, ma soprattutto sullo spagnolo. E ce n'è una anche sul tedesco, basata sul tedesco, che però è quasi estinta. Guarda, anche che tedeschi, hai visto? Che l'Unzerdeutsch della Papua Nuova Guinea. Io pensavo che una sorta di creolo del genere si parlasse in Sudafrica, invece in Nuova Guinea, infatti, ed è quasi estinto. Non lo sapevo. Interessante anche il Llanito, che si parla a Gibilterra, nella colonia, ex colonia spagnola, ancora diciamo terra polide quasi, che è Ceuta. Ceuta, è vero. E di questi ne abbiamo uno sempre presente nelle varie ricerche linguistiche, che è il Tok Pisin della Papua Nuova Guinea. Importantissimo. Papua Nuova Guinea. In che posti meravigliosi vi I stiamo tuoi, portando. I tuoi due buoi. Li vuoi quei kiwi. I quei due kiwi. Proprio così. Allora, detto ciò, vogliamo nominarne altri o ritieni abbastanza inutile? Secondo me... Il papiamento l'abbiamo detto, sì, che è molto importante. C'è il crio, c'è soprattutto il creolo giamaicano, che ovviamente sì, infatti, è molto famoso anche nella musica reggae, piuttosto utilizzato ovviamente. I cantanti principali non lo utilizzano, cantano in inglese, però è una lingua che è ancora estremamente attiva. Se non sbaglio, è diffusa quasi fino alle Barbados. Ah, wow. Sì, poi quelli che più spesso si ritrovano nelle ricerche o anche semplicemente nei corsi fai da te sul tubo sono quello haitiano e quello hawaiano, fondamentalmente. Sì, sono i propri fondamentali, più diffusi, ancora parlati e soprattutto ancora molto studiati. Non so per quale motivo invece il creolo giamaicano è stato abbandonato dagli studiosi, perché forse è molto diffuso per canali mediatici differenti, che possa essere la musica, appunto. E io invece ho trovato un piccolo corso di creolo haitiano che vi farò sentire. Imparate con noi le principali 20 parole del Haitian Creole. Ma fantastico. Allora devo rintracciare subito. The 5 most common interactions that you find yourself in with Creole speakers, starting with greeting someone, sharing names and saying goodbye. Questo è our vocabulary. Salutare. Bonjour. Hello. Hello. Bonjour. Qui j'ai Rele. What's your name? Come ti chiami? Moi Rele. Il mio nome è Nawe. Vediamoci dopo. Ciao, a più tardi, Nawe. Questo non è Bonjour. Bonjour. Qui j'ai Rele. Moi Rele Berlin. Chi c'è Rele? Moi Rele Carlo. Si chiama Belin. Ok Carlo. Nawe? Nawe. Ok. fa un po' la faccia da ebete e se ne va, perché noi chiaramente stiamo vedendo il video. Asking how someone is doing. Come sta? Our vocabulary. Bonsoir. Che è buonasera. Qui Jean Rouillet. Come stai? L'abbiamo visto prima. Muy bien. Muy bien, molto bene. Sto bene. Bon bagay. Bon bagay. Tanta roba, tanta come roba. Si direbbe. Bonsoir. Bonsoir. Qui Jean Rouillet. Muy bien. Qui Jean Rouillet. Muy bien. Bon bagay. Conversazione aridissima. Next. Sì. Asking for permission and receiving a yes. Our vocabulary. E dire di sì alla Muy domanda. Capab? Posso. Uvle? Vuoi qualcosa? Oui. Oui, sì. Merci. Grazie, merci. Pas de problème. Pas de problème, no problem. Bello. C'è lei che sposta una pianta, tipo... Oui, oui. Capab. È tipo un bonsai, ma sta facendo male. Oui, merci. Pas de problème. Devo dire che è bellissimo, ha un suono stupendo. Secondo me è quello che succedeva a me in prima superiore quando studiavo francese e inglese contemporaneamente. Menio, col francese non mi puoi dire questo. Sì, mischiavo le due lingue e veniva fuori un gran bel creolo haitiano. Caspita, sapevo il creolo haitiano e non lo sapevo. Hai visto che roba? Sì, però davvero è bellina anche la grafia di queste parole, che se poi cercate su YouTube, quindi cercate Speak Haitian Creole Now, the top 20 words for your next tri punto. Vedrete che anche la grafia è come se fosse una trascrizione IPA quasi, cioè come se fosse proprio una trascrizione letterale del suono emesso, per cui pas de problème, tipo non era proprio scritto come si direbbe in francese, ma è come la sua pronuncia, viene scritto come si pronuncia, senza ovviamente la famosa R francese. Oh, brava! E ora io vi farei ascoltare un'altra canzone loffia, questa volta per farvi sentire un po' di Talk Pisin, quindi sempre ammesso si dica così. Talk Pisin. Allora, vi farò sentire la canzone loffia di chissà, forse. Perché non è detto che si pronunci così. E poi vi racconteremo qualcosa su questo Talk Pisin, ovviamente. Intanto rilassatevi. Non troppo, perché tanto è un pezzo che non... Boys, time you stop long way, lo merry blow you. Now you miss me, I'm true. Try and play me, miss la song, yeah. Toque me, mo sem, harem. Merry leva, mi sabe, miss me, you turu. Nami. Wari tu mas lo you long pela time no kissing one pela letta by me making one em now suppose you lose me bunny and I will get Mary leva you come now you send the same life for me miss and the salim ting ting tie me round one time all mangia long one em na me be see lo you all send me sabe like him look him you long wara buta away Mas filo one em aqua mi sabe stop kain good pa la memory blow you by come up yes mi all sem canuna you all sem saman ni no think suppose me tan him head by you na piaman Mary leva mi sabe missing you turu mi sabe missing you Nami wari tu mas mi sabe wari mi sabe wari rompe la time mi no kissing one pela letta no kissing letta by me making one and now suppose you losing me by me and I no get losing me Mary mi sabe ting tu mas blow you mi tongo el semi by come back na dispela toki turu mi rasta mangi Belong TNG na mi stop In a long time by me come na look him you long up Oh, no good you think lose long me Mary Oh, no good you think lose long me Mary Mary leva le missing you to room. Na mi wari wari tu mas lo you. Long pela time mi no kissing one pela letter. By me making one and now suppose you losing me by me and I all get thinking about you, girl, because I'm so far away from you. Wanting you to know that this love for you is always true. Not a day goes by that I don't see you in my eye. But I try to carry on, my God, so lonely I could die. And my heart feeling the sparks that you be giving me. Why we in two different places, girl? You know it's insanity. The man in me is what I gotta find to carry on. This song is what I'm sending to you, girl. It's been too long. Pezzi fa un po' cagare, era semplicemente per farvi sentire qualcosa inerente ai nostri argomenti. Ha una valenza sì. Completamente simbolica. Certo, ma soprattutto che è questo talk pisin? E allora la parola, la lingua è innanzitutto una lingua creola, l'abbiamo già detto, basata sull'inglese. Si parla in Papua Nuova Guinea, nella parte però settentrionale dello stato. Lo so, non riesco a dirlo, mi viene in mente quello sketch di Lillo e Greg dove cantano i miei tuoi due buoi, quindi mi si blocca la sola articolazione. Ve lo faremo sentire la prossima puntata. Vabbè. Papua Nuova Guinea. Sì, grazie. L'interprete, nonché logopedista. E insomma, si parla della parte settentrionale dello stato, manteniamo un po' di serietà. Nel distretto capitale Port Moresby, si dice Moresby. Moresby. Chissà, perché qui è tutta una grande incognita, io ve lo sulla dico. Sulla pronuncia del nome, cioè in Tok Pisin. Anche le Waleva, lì fanno un po' come vogliono, giustamente se la decidono loro. E in tutte le isole appartenenti allo Stato. È una delle tre lingue ufficiali della Papua Nuova Guinea. Pensate, detto bene. Come un posto così piccolo, perché effettivamente la Papua Nuova Guinea è veramente infatti, un piccolissimo arcipelago, ha ben tre lingue ufficiali. Capito? E questa infatti viene usata con una buona frequenza in tutti i mezzi di comunicazione, nelle attività anche di governo. Però spesso chiaramente viene scelto l'inglese, come insomma, viene preferito l'inglese anche. Forse però è una questione proprio di comprensione simpatica proprio. Sì, infatti. Però in alcune scuole elementari viene insegnato nei primi tre anni di frequenza ai bimbetti. Carina anche questa cosa comunque. Anche perché i bambini sono nella parte finale del periodo critico, quindi sì, infatti già esporli a diverse lingue male non fa in generale a tutti i bambini Esatto, tutti mamme se fate andare i bimbetti ai corsi di lingua presto, ma che fateli ascoltare tante canzoni e tanti video parlati in lingue differenti e ci penseranno loro. Non c'è bisogno loro. Di essere ricchi per imparare le lingue, dai. I bambini davanti a video in inglese con sottotitoli in italiano ovviamente devono saper leggere, però sono dei fenomeni. Secondo me il periodo critico si sta estendendo anche oltre i 6-7 anni. Ma è perché in realtà non c'è un vero e proprio momento, cioè non c'è scritto da nessuna parte nel nostro DNA che il periodo critico è fino a, che so, 6 anni e mezzo. Sappiamo il contrario, sappiamo quando la lingua è stata inserita nella vita di un bambino in ritardo, cosa può succedere, cioè sappiamo che se si insegna a un bambino che non è stato esposto al linguaggio, si inizia a insegnare una lingua a 12 anni, bene, sappiamo che è tardi, sappiamo che a volte è tardi 10 anni, però non c'è un vero e proprio momento. Cioè, il famosissimo esempio di Gini, Andatevelo a vedere, sì, come infatti. La canzone di David Bowie, esatto, quindi senza sì, Gini, ma Gini, andatevelo a leggere perché effettivamente è molto molto interessante. Poi riprenderemo il discorso quello infatti è il caso in cui 12 anni si sa che è tardi, ma non sappiamo se un bambino esposto regolarmente poi abbia veramente una finestra che si chiude all'improvviso, poi se ne parlerà, sì, ne parleremo. È uno dei più belli argomenti. Bene, io ho una canzone di Talk Pisin, sempre una song popolare che dice facciamo sentire solo un pezzettino, un pezzetto, vi facciamo fare questo viaggio. Sì, sì. Solito pippone. Sì, questo era un pezzo carino, estivo. Sì, era la sigla di un documentario. Di Chris Owen. Sì. Bene, e siamo arrivati quasi al termine, ma con un preziosissimo suggerimento. Contributo di lettura. Wow, siete pronti? Vai. Studia, che tempo è? È tempo perso! Io studio. Tu studi, egli studia. Che tempo è? È tempo perso! Grazie, eccoci Pierino! Abbiamo voluto cambiare la siglietta dei libri questa sì, sera. Peccato, ma ci siamo sempre un po', come dire... Alvaro Vitali è sempre style. Con noi. Allora, quasi il libro... Quasi. Il libro incriminato della serata è L'animale parlante di Marina Nespor e Donna Jo Napoli. Sono entrambe due linguiste, due docenti universitarie. Marina Nespor è stata professoressa ordinaria di linguistica generale a Ferrara, all'Università di Ferrara, e Donna Jo Napoli invece è una linguista italo-americana che insegna appunto linguistica generale allo Swarthmore College negli Stati Uniti. È un libro edito da Carocci, la versione che ho io è del 2003, è un libro molto bello, si tratta di un volume dedicato agli studenti come al solito di linguistica della triennale, però è di davvero facile consultazione, è molto interessante, è scritto in un linguaggio comprensibile, bello liscio, per cui è un, diciamo, un excursus molto divertente e interessante su quelle che sono le facoltà di linguaggio umane e tutte le varie lingue che una persona, un essere umano può sviluppare, dalla lingua dei segni, la lingua creola, fino alle lingue che conosciamo più comunemente. Vi faccio sentire, vi leggo un piccolo stralcio sulla formazione del pidgin e quindi la differenza con il creolo. Lo trovate a pagina 221 del libro. Allora, dice che la formazione dei pidgin è paragonabile all'apprendimento di una seconda lingua, mentre la formazione delle lingue creole è paragonabile all'acquisizione della madrelingua. I nuovi nati esposti ad un pidgin creano cioè una nuova lingua, il creolo. Le lingue creole sono quindi lingue create dalle nuove generazioni di bimbi esposti al pidgin. I bambini che sviluppano il linguaggio sovrimpongono cioè una grammatica alla parlata a cui sono esposti, che invece ne è priva. Tale grammatica può essere caratterizzata da valori di parametri diversi da quelli delle lingue che hanno dato luogo al pidgin. Della lingua creola di Haiti, per esempio, è stato detto che è un francese calato nella sintassi africana o una lingua ewe, quindi sempre una lingua africana, con lessico francese. Mi fermo qui perché si potrebbe andare avanti molto. Forse vi faccio giusto un preambolo sulla grammatica generativa. Cioè, gli esseri umani sono cioè dotati di un istinto a sviluppare il linguaggio strutturato da una grammatica, che è in accordo con i principi della grammatica universale, anche in assenza di stimoli linguistici che si conformino ad una grammatica. Tiè. è pieno di refusi. Editori, state attenti. Ripetizioni ediofoniche. Male, male, male, male. Ai, ai, ai, ai, ai. Qui parla Beccati. L'esperta. Bene, bene, bene, bene. Abbiamo finito. Siamo l'unica trasmissione in questa radio che inizia puntuale, finisce puntuale. Scusate. Perché sappiamo che avete tante cose da fare, anche voi ascoltatori, per cui... E noi abbiamo fame e sete e quindi non vediamo l'ora di lasciarvi, ma prima vi facciamo sentire l'ultimo pezzo di chiusura che la nostra Nina ci presenterà con tutto il suo entusiasmo. Eccolo qua, è Kid Creole and the Coconuts con Stool Pigeon, il piccione rubato. per chiudere in bellezza, piccione, eccetera, eccetera. Ci stava, dai, via. Benissimo, benissimo. Allora, rifacciamo una carrellatissima, velocissima di tutte le robissime da leggere. Allora, vi leggiamo, vi diamo i nostri contatti. I nostri social Wombat per il sito wombat.noblogs.org, Twitter, twittateci su twitter.com/radiowombatfi come Firenze, oppure ci trovate raramente su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze, e soprattutto scriveteci tante belle mail a postawombat@siberia.net, le leggeremo in diretta. Benissimo, e se siete nei paraggi... o comunque anche se dovete fare un po' di strada c'è tempo, alle 21 c'è alla polveriera presentazione di Franti, libro DVD, poi presumo dopo metteranno un po' di musica, insomma, sarà forse un DJ ci sarà, set. Ecco, qualcosa ci sarà, quindi dai, andate, alzate la polveriera, il pilino, è un posto bellissimo, che è un posto meraviglioso. E lo stesso, sempre alla polveriera, domani dalle 17.30 presentazione della Scarceranda 2017, e a seguire aperitivo e musica. Sabato 3 non c'è niente da fare, quindi potete andare in biblioteca, prendere il libro che vi abbiamo consigliato e leggervelo. Poi aggiungerei a questo punto così un ripassone, venerdì 9 sempre in polveriera, mazza quanto sono impegnati sti ragazzi, ore 18 concerto Recane e suo marito più Squid Parade Show. Sabato 10 Emerson, Next Emerson, concerto degli Ovo, mega release dell'album nuovo, il primo live degli Ovo, già giusto, che bello. Poi ci sono gli Idle God and the Mild, aiutami, il concerto tutto a cura di Diodrone, quindi della mega nuova etichetta fiorentina che salutiamo e che a cui vogliamo tanto bene, e anche serata del nostro amatissimo collettivo Nuovi Rumori, che porta sempre tanta bella musichetta a Firenze. Bellini. Bene, bene, bene, bene. Allora, ciao, basta, ci vediamo, anzi ci sentiamo giovedì prossimo. Andiamo a magna. Andiamo a magna. Ho fame, sete, mi scappa la pipì. Ciao, ciao. Ciao. And he- took a walk with his crooked friends, and they joked about the good old days, and he recorded it on a reel of tape. He caught the mug who did the forgery, and a babe in charge of larceny. So the FBI, they rewarded him, because they like a guy who will stab a friend. A boat and jewelry, but he couldn't buy any company.